non lo so, l'arbitraggio di ieri sera è stato assolutamente tecnicamente inadeguato, punto e basta. Un campionato difficile che proprio sudato proprio con la lingua fino all'ultimo, però un'emozione indescrivibile, ancora difficile crederci. Tanto io voglio fare l'allenatore dai box, mi piace la situazione, per essere allenatore bravo devi star lì, fa molto tendenza. Tutti convocati. E siete davvero tutti convocati questo pomeriggio. Intanto buongiorno da Giovanni Capuano, Franco Piantanide in redazione, Filippo Aureggi in regia. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete scriverci anche via Twitter @tutticonvocati. Dicevo, siete davvero tutti convocati perché c'è da celebrare un grande campione italiano, uno che ancora domenica scorsa ha dimostrato come non sia necessariamente la carta d'identità a decidere se sei ancora il numero uno o no, se sei il più forte di tutti, se sei più forte anche di cadute e sfortune. Eccolo arrivare Sykes, poi Ria, quindi Cieca e no! No! No! Perde l'anteriore! Mamma mia, Max Biaggi a terra! Max Biaggi a terra, no! No! No! Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il campione del mondo 2012, signori, è il corsaro Max Biaggi, sesto titolo in carriera che si conferma in questo istante transitando sul traguardo. Eleonora ha le lacrime, finalmente lo sfogo, la Aprilia che conquista anche il titolo costruttori. Io sono ancora qua. E allora buon pomeriggio a Max Biaggi, ciao Max. Ciao, buon pomeriggio. Sei ancora qui anche se hai 41 anni, tanti ancora... in questi due giorni l'hanno scritto, sei un po' vecchietto? Sì, hanno scritto bene. Ma non te la prendi? No, è la verità. Ti sei ripreso dalle emozioni di Magny-Cours, le abbiamo sentite, le abbiamo condensate in questa pillola montata dal nostro Franco Piantanida, la caduta alla mattina che sembrava aver compromesso tutto, poi... Invece nel pomeriggio in gara 2 è arrivato il piazzamento che serviva, hai vinto il mondiale per mezzo punto. In tanti hanno ricordato un duello epico della Formula 1, quello tra Prost e Senna. Ti sei ripreso? Ma io, guarda, come ho già detto prima, questo è stato un finale thriller questo weekend in Magny-Cours, dove era assolutamente vietata e malati di cuore anche cardiopalpici. Che dire, è stato assolutamente bellissimo riuscire a portare a casa questo grande risultato, poi mezzo punto, ecco, che c'è da dire, si poteva andare in paradiso o all'inferno, è stata proprio questione di niente, attimi. Giornate come questa accorciano o allungano una carriera? Ammesso che abbia un senso parlare di accorciare o allungare, noi prima abbiamo scherzato, la carriera comunque di uno splendido sportivo che a 41 anni si mette ancora dietro tutti. Ma io non guardo troppo né avanti né indietro, vivo il presente e cerco di farlo al massimo, perché so che è una bellissima favola sia per come è iniziata e per quando finirà. Ecco, so che potrebbe essere anche, non so, oggi o tra un anno, chissà, da due, però io in questo campionato voglio sempre ricordare e ringraziare i compagni di viaggio, che sono i ragazzi del team, l'azienda per cui ho conquistato il mondiale, gli sponsor, gli amici, il fan club, i tifosi del mondo, questi sono sempre stati importanti e presenti per me. Ho letto però che chi ti segue, chi ti ha seguito, a partire da tuo padre, ti ha intimato di non farlo soffrire più così, che non si può. Gli ho levato 8-10 anni di vita, poverino, perché sono stati veramente momenti difficili, però adesso possiamo dirlo che è finita. E l'importante non è vincere per 50-30 punti un'eternità, quel mezzo punto è stato sufficiente a consacrare un sogno. A 41 anni ha un gusto particolare tenersi ancora dietro tutti, anche i ventenni. Ci sono ragazzi che potrebbero essere anche tuoi figli. Sì, ma poi per esempio la differenza qual è? È nello spirito e nella voglia di affrontare la quotidianità. Io non ho mai avuto persone che così che hanno lavorato su me come soggetto sportivo, motivatori, cose del genere. Mi sono sempre automotivato. E, come dire, un vincente è un sognatore che non ha mai smesso di sognare, no? Questo l'ho sempre detto. E io dal primo giorno che seguivo quel titolo mondiale nel 94, sono passati 18 anni, oggi questa favola si ripete. Noi ricordiamo ai pochi che non lo sapessero che quello di domenica è il tuo sesto titolo mondiale, perché ne hai vinti 4 nella 250, e stiamo parlando degli anni 90, e poi in Superbike avevi già vinto nel 2010. Esatto. Quante volte hai sentito dire, magari provando anche un po' di fastidio, che eri vecchio, comunque sul finire della carriera, che avevi già dato il massimo? Sinceramente no, questo non è mai stato detto. No, questo no. Dunque, zero fastidio, perché anche se l'avessero detto mi sarebbe scivolato abbastanza facilmente sulla pelle, perché non era così, ecco. Però tu sei la dimostrazione che non è sufficiente la carta d'identità per fare un grande sportivo. Ogni tanto, ma non solo nel motociclismo, in questo periodo si finisce per mettere un po' da parte chi ha questa carta d'identità un po' più pesante, a prescindere. Ma forse sì, io guardo il mio di caso, e è un caso tutto singolare, è la prima volta che è successo, e speriamo che non sia l'ultima, ecco. Due titoli che arrivano proprio nell'ultima curva con l'ultima manciata di gas. 6 volte campione del mondo per Max Biaggi, straordinario protagonista di una stagione incredibile. Lui e i suoi avversari, perché a rendere grande un campione, per rendere fantastico un campione, ci vogliono dei grandi avversari. Col cuore che batte più forte. Questo ancora Max Biaggi domenica, nel giorno della conquista del secondo titolo mondiale per Superbike. Max Biaggi, la linea ci ha tradito, stiamo cercando di richiamarlo. Intanto leggo qualcuno dei messaggi, ce ne stanno arrivando davvero tantissimi. Carlo da Torino: grande Max, grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato da quel lontano esordio mondiale del 1992. E poi ancora ci scrivono Lori da Milano: se Biaggi a 41 anni vince guida bolidi a più di 300 all'ora, io che gioco in terza categoria a calcio a 46 anni posso ancora divertirmi. E poi è un po' antipatico, però è un vero campione. Congratulazioni. E ancora grande Max, scrive Stefano, campione vero, ma senza apparire per forza simpatico. Allora cerchiamo di recuperare la linea telefonica con Max Biaggi per concludere la nostra telefonata, e intanto andiamo da Salvatore da Milano, che ci ha raggiunto all'800 24 00 24 e vi invito a chiamare, questo è il numero, oppure potete mandarci i vostri messaggi al 349 238 6666 o scriverci via Twitter @ tutti convocati. Salvatore, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Sì, volevo ritornare un attimo al calcio e parlare del derby. Può chiamare e parlare di quello che vuole. Perfetto. Da tifoso juventino, io l'ho visto, sono rimasto sconcertato dalla pochezza tecnica, tattica, cioè, non lo so, sono rimasto veramente allibito. Si è parlato dell'arbitro, che secondo me è stato il migliore in campo, perché almeno qualche cosa giusta la faceva. Ho visto veramente due squadre allo sbando. Beh, migliore in campo mi sembra una provocazione la sua. Chi è che ha giocato bene? Ma si può dire serenamente che l'arbitro ha arbitrato in maniera tecnicamente inadeguata? Io da questo punto di vista condivido in pieno l'analisi e le parole di Adriano Gagliani, e che allo stesso tempo è stato un brutto derby, perché la qualità e il livello di Inter Milan in questo momento è questo. Del resto ne abbiamo parlato a lungo anche ieri in A Tutti Convocati con alcuni ospiti, però io credo che si possano dire tutte e due le cose. Salvatore? Sì, assolutamente, diciamo, per come la vedo io, assolutamente, è che veramente un conto è dire un brutto derby. Io ho visto delle squadre proprio, anche da un punto di vista tattico, persone che andavano da sole a fare il pressing, gli stop sbagliati, errori proprio di posizionamento, portieri a farfalle. Da una parte c'era uno che andava a farfalle, dall'altro uno che non usciva mai. cioè uno spettacolo. Insomma, non le è piaciuto, Salvatore? Diciamo abbastanza indegno come spettacolo. E vabbè, lei da Juventino dovrà essere contento, perché evidentemente né Inter né Milan possono dar fastidio alla sua Juventus. Abbiamo recuperato Max Biaggi. Max, ci sei? Sì. Allora, ciao, scusate perché ho dovuto fare un cambio di batteria del telefono, l'ho fregata alla mia ragazza, che come il mio è morto, è deceduto da stamattina, che squill, sorry. Quanti messaggi di complimenti hai ricevuto? Io prima, tu non hai sentito, ne ho letti un po' tra quelli arrivati qui via SMS o anche via Twitter, sono in tanti che ci stanno scrivendo da questa mattina, hai ricevuto tanti messaggi? Ah, sì, beh, tanti come, diciamo, le grandi opinioni, ma credo che sia abbastanza normale. Poi tra questi bisogna saper leggere tra le righe, no? Quali sono quelli più sentiti o meno. Ho letto che a Magnicur c'era Jorge Lorenzo, ma tu quanti amici hai nel paddock, nel mondo del motociclismo? Ma guarda, io l'ho detto già in altre situazioni, che di facciata, di immagine, come in passato ha voluto far vedere anche altre persone, sono tutti amici, sono tutti bravi, tutti si vogliono bene. Poi alla prima miccia che si accende cominciano a vuotare il sacco: ah, non siamo amici, quella stampa che dice questo, ma io non t'ho mai sopportato. Se questo degli anni, come 20 anni che corro, ne ho visti tutti i colori. In realtà nello sport la vera amicizia, se corri nella stessa competizione, non può esserci, perché quando sei un rivale non puoi essere amico come dicono o anche come vogliono far sembrare, perché è proprio nel DNA, se sei uno che compete. C'è un po' di di ipocrisia tra quelli che dicono di essere grandi amici di colleghi che sono rivali. L'amicizia è l'opposto della competizione, ecco. Ma ti sono arrivati i complimenti di Vale Rossi? Chiede Alberto. No, non me l'hanno mica fatti, no. Beh, lui di sicuro, almeno, e tu stesso con lui, qui di ipocrisia sul fatto che siate amici non ce n'è mai stata, cioè non siete amici e basta. Beh, esatto. Ti dà fastidio l'etichetta del campione antipatico? Guarda che in tanti ce l'hanno scritta, eh? Grande campione, anche se non deve apparire per forza simpatico. Ma dipende, che uno intende per amicizia, no? O per apparenza. Potresti parlare per ore di questo dettaglio, ma se vai tra le righe, no, può essere diverso di quello che sembra, o viceversa. Io personalmente ritengo la Superbike oggi più divertente e per i piloti più competitiva della MotoGP, che si sta lentamente normalizzando. Non tutti condividono, noi abbiamo pubblicato anche su Facebook questa mattina, in attesa della chiacchierata con te, questo mio pensiero. Tu come la pensi? Ma è una categoria diversa dalla nostra. Io sono stato per 14-15 anni in quella categoria e mi sono sempre trovato bene, dunque non vedo una competizione tra le due, sai. E poi è come campionato Serie A e la Champions League, a volte uno guarda dall'alto, uno guarda dal basso, ma in realtà le corse di moto, pur seguite in mondo visione da televisione in giro per il mondo, sono apprezzate poi da tutti e hanno il loro pubblico. Dunque non vedo una vera competizione. Certo che un finale come quello di Magnicur, un finale come quello di questo mondiale, io credo che in MotoGP se lo sogni da qualche stagione a questa parte. Beh, neanche il più abile regista di film thriller avrebbe mai potuto pensare un finale così, ma è puramente casuale. Ecco perché è stato bello, ecco. Ah beh, sicuramente. Ho letto, e tu ci hai già confermato, che stai per firmare almeno fino al 2013 il prolungamento del tuo impegno con l'Aprilia, che significa che per un altro anno ti vedremo sulle piste, giusto? Sì, però dalla prossima settimana torniamo sul tema e vediamo, ci sediamo e cominciamo a scremare un po' meglio. Anche perché di ritirarsi ancora non c'è il pensiero. Tu sei come Totti, che ha detto: io ho ancora in testa la partita dopo, tu hai in testa il gran premio successivo. Francesco è sempre colorato con le sue espressioni forte, però io insomma vivo la giornata, anche perché non avendo più una tenera età, ovviamente guardo insomma giorno per giorno, al massimo mese per mese, non troppo in là. Ti lascio gli ultimi secondi con due domande fatte al tifoso romanista. Totti intanto si è definito l'ottavo re di Roma insieme a Falcao, uno i giorni pari e l'altro i giorni dispari. Ha esagerato? Ma no, ma tutto bello. L'importante è che fa sorridere ed è piacevole, dai. Non si fa male a nessuno se uno dichiara una cosa così, diciamo, innocua, che non dà noia a nessuno, dai. Hai seguito la tua Roma in questo inizio di stagione? Ti piace? Zeman ti convince? Direttamente negli stadi no, in televisione sì, e beh, ovviamente come tutti convince un po' a metà. Si sa che con Zeman puoi fare delle grandissime prestazioni, ma anche puoi anche prendere tanti di gol, dunque il tifoso ancora non è sicuro, ma questa Roma sono sicuro che piace, perché almeno è un po' diversa. Non sei però uno zemaniano a prescindere. Ultima domanda: Zeman o De Rossi, con chi stai? Io odio le spaccature, dai, siamo all'inizio di questa stagione e di questo campionato. Per favore, fate la pace. No, al giro di boa già si può trarre qualche conclusione, però sarebbe bello che collaborassero, dai. Grazie Max Biaggi. Grazie a voi. Grazie, complimenti ancora. Ivan da Catania, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Volevo fare tanti complimenti a Max Biaggi, perché lo seguo dal 92, nelle varie vicissitudini che ha avuto. Sono stato sempre un suo ammiratore e mi fa piacere che finalmente negli ultimi anni abbia avuto quello che tanto gli hanno tolto negli anni passati, i risultati che non sono arrivati, soprattutto nella vecchia moto SP. La seconda osservazione è riferita alla Roma di Zeman. Avete fatto un argomento, io sono un tifoso zemaniano e non posso fare un'osservazione. Domenica sera, durante un'intervista alla Domenica Sportiva, ho fatto una domanda a Collovati, il quale Collovati da qualche settimana continua a pungere Zeman per il fatto che il gioco di Zeman non c'è. Ricordo che Zeman è stato destinato alla Roma da appena 690 minuti, quindi sono 7 partite, di cui una non giocata. Quindi Ivan, ma Zeman è destinato a dividere, a spaccare, ha sentito anche Max Biaggi, questo vale ovviamente anche per i commentatori. Comunque di Zeman, di De Rossi e di tutto ciò che riguarda il calcio parleremo. Ci state scrivendo ancora in tanti per Max Biaggi al 349-238-6666, potete anche chiamare 800-24-0024 oppure scriverci su Twitter, @ tutti convocati. Massimo che dice: mi piacerebbe tanto sapere se la rivalità di Max Biaggi con Valentino è rivalità vera o costruita. Io credo che anche il modo in cui abbia risposto prima Max Biaggi alle domande su Valentino Rossi debba chiarire che tra due campioni possa anche esserci una sana antipatia, pur nella stima. Ecco, io credo che tra Max Biaggi e Valentino Rossi semplicemente non sia mai scattato il feeling, siano stati rivali dentro e fuori la pista, anche se poi i destini dei due si sono separati. Stefano da Cremona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Posso parlare di Milan-Inter? Può fare quello che vuole. Grazie. Senta, io sono tifoso milanista, volevo esprimere il mio parere sul Milan e sul periodo che sta vivendo in questo momento. Io sto guardando le partite, vedo giocatori che stanno perdendo il gusto anche di giocare a calcio. Vedo persone che cercano, giocatori che cercano poco la palla. Vedo, insomma, le cose che ti insegnano sin da bambino quasi le vedo perse in quella squadra, come se d'improvviso fosse mancata la personalità, ma anche la minima personalità per giocare in Serie A. Allora quasi quasi mi viene da dire: ma perché sti giocatori non li paghiamo a pallone toccato e giocato? Che magari trovano più motivazione. No? Lei dice? Ecco, è una mia battuta ovviamente, però io vedo una squadra che non cerca il gioco, non cerca nemmeno il pallone. Io credo, Stefano, in realtà che il Milan abbia perso tanti punti di riferimento e che questo alla fine rompa, o meglio costringa a ricostruire anche quel filo che è il gioco di una squadra. Guardi che un anno fa, se vogliamo tornare indietro di qualche mese, la situazione dell'Inter non era poi tanto diversa. È vero che l'Inter ha cambiato parecchio in estate, però è anche vero che alle volte poi la convinzione o o anche solo la consapevolezza di quale sia l'obiettivo che tu devi inseguire fa molto a livello di motivazione. Io credo che uno dei grandi errori del Milan in questa estate sia stato voler caricare la stagione che è appena iniziata di significati che non poteva avere. È impossibile alla vigilia dire che questa squadra deve lottare per lo scudetto, deve lottare per le prime tre posizioni, quando è evidente che c'è stato un ridimensionamento tecnico e di carisma che non può non portare all'apertura di una fase di ricostruzione. Questo è quello che penso. Enzo da Napoli, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio anche a lei. Prego. Senta, posso farle una domanda molto schietta, molto sincera? Prego. Lei che cosa ne pensa degli arbitri dopo quello che è successo domenica? Non andando indietro col tempo, riferendomi soltanto a quel rigore non dato al Napoli e soprattutto a quell'intervento da codice penale di Chiellini nella partita Juventus-Siena. Cioè, io voglio dire, dopo lo scandalo di Pechino, perché a un certo momento la Juventus viene sempre volutamente o non volutamente favorita? Enzo, intanto io penso che a Pechino non è stato uno scandalo. So che mi attirerò qualche critica da parte degli amici napoletani. A Pechino c'è stato un arbitraggio con qualche episodio discusso che però si poteva anche decidere così come è stato deciso da Mazzolini e dai suoi collaboratori. Penso che Chiellini andasse espulso, ma il suo non era un intervento da codice penale. Penso che in fondo questo inizio di stagione per Juventus e Napoli più o meno consegni i punti che rispecchiano il valore delle due squadre, che sono le due squadre destinate ad andare fino in fondo in un duello per lo scudetto. Penso anche che mancano poco meno di due settimane alla partita, al primo confronto diretto, quello del sabato in cui ricomincerà il campionato, e cominciare a caricarlo di questi significati così legati all'arbitro, cominciare ad esempio a discutere come si sta facendo di chi potrà essere designato o meno per la partita di Torino tra Juventus e Napoli, certamente non aiuterà chi poi sarà davvero chiamato ad arbitrare quella gara. E questo è un male ed è un errore che stiamo commettendo e rischiamo di commettere tutti. Buon pomeriggio a Corrado Enrico. E buonasera anche a voi. Buon pomeriggio Corrado Enrico, che è stato convocato qui a tutti i convocati su Radio 24 per cercare di capire che cosa succede nel campionato in nazionale e non solo, partendo da quello che è un blob di parole pronunciate nelle ultime ore dai grandi protagonisti che, a mio parere, hanno mancato un po' di coerenza. Sentiamolo. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Non sono Mourinho nel senso che non sono nessuno rispetto a lui, perché lui ha vinto in tante nazioni diverse. È normale che da una parte i paragoni mi fanno piacere, però io dentro di me ho la consapevolezza, non sono stupido, ho la consapevolezza che non ho fatto niente rispetto a lui. Ci puoi provare, chiamami tormento, dai. Stiamo lavorando come squadra, poi il discorso che io per ora non c'ho gerarchie in campo e bisogna conquistarsi sul campo, e se, pur riconoscendo grandi valori di Burdisso e di Osvaldo e di De Rossi. Io spero che al più presto ci aiuteranno. Questa sera raccontami un'altra, violini e rose li posso sentire. Devo essere sincero, ci sono rimasto male nel momento che Mario ha deciso di farsi operare proprio nelle due settimane che la nazionale era impegnata con delle partite ufficiali. Però questo non toglie il fatto che l'ho convocato, perché appunto un po' sul fatto dell'orgoglio, un po' sul fatto che comunque è un talento e dobbiamo per l'ennesima volta cercare di capire se lui ha voglia di diventare un campione. Parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Cassano per gli europei quando era al 50% e non chiamare adesso mi sembra un controsenso. Io addirittura, cioè, vedendo Totti adesso, chiamerei anche Totti, ecco, perché in una forma strepitosa oggi è stato il migliore di tutti. Quindi in questo momento bisogna cercare di vincere subito. Non cambi mai, non cambi. Enrico, cosa ne pensa di quello che anche oggi scrivono i giornali, gli aletti, i paragoni tra Stramaccioni e Mourinho, lui che forse fa un po' anche il finto modesto? Cosa ne pensa? No, vabbè, insomma, ora se vogliamo far del male a Stramaccioni, andiamo a fare un paragone con Mourinho, credo che Stramaccioni, che pure ha qualità eccellenti, l'ha dimostrato in carriera anche nei settori giovanili, l'ha fatto benissimo, anche ora guida una squadra difficilissima sul piano della gestione, la guida con sagacia e mi pare che si comincia a intravedere un piano di lavoro e di gioco. Però voglio dire, lasciamo stare Mourinho, perché sennò facciamo del male a Stramaccioni. Lei era tra i pochi a marzo che aveva definito coraggioso Moratti quando in tanti lo criticavano. Ha avuto ragione o è ancora presto per dire riuscita la scommessa? Ma coraggioso e devo dire, siccome aveva una conoscenza diretta del giovanotto, e credo che non dimentichiamo le sue qualità anche, come dire, psicologiche, e anche la sua romanità lo aiuta molto nel gestire i grandi campioni. Quindi Moratti, che ben lo conosceva, mi pare che abbia avuto ragione nella scelta. Non ha l'impressione che ci sia un po' di invidia da parte dei colleghi, soprattutto quelli che ricordano spesso l'importanza della gavetta? Io leggo ogni tanto in queste settimane, comunque tra le righe, un po' di arroccamento dei colleghi di Stramaccioni, come se venisse atteso al primo passo falso. Ma lì sbagliano, perché voglio dire, loro, quelli, non so chi sono, ma insomma presumo vecchi allenatori o allenatori di una certa età, hanno avuto anche loro le possibilità di far bene. Quindi è giusto che un giovane bravo e sveglio e astuto come Stramaccioni abbia le sue chance. Quindi io lo seguo con molta simpatia e gli auguro tanto bene. Credo che anche farà bene. Ma ha fatto bene ad esultare come ha fatto dopo il derby? C'è chi lo ha criticato come Preziosi, gli ha dato tra le righe un po' del maleducato, del poco rispettoso. Il maleducato mi sembra troppo, perché nei campi si vedono delle cose peggiori. Esultare dopo una vittoria sofferta, difficile e, come dire, forse anche inaspettata, come era quella del derby, credo che rientri sul piano strettamente formale. Anche a me non è piaciuta quell'esultanza smodata, ecco. Però devo dire che è comprensibilissima e accettabilissima e assolutamente non ha sfiorato la maleducazione. Assolutamente, condivido questo giudizio, anche perché il calcio è bello anche perché trasmette emozioni, e quindi è bello anche che una vittoria sofferta possa essere celebrata in questo modo. Enrico, le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, ci sono le informazioni sul traffico e poi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo intorno alla nazionale, perché a proposito di coerenza e di emozioni, io invece fatico a trovare il filo logico delle scelte di Prandelli anche in queste ultime convocazioni, e soprattutto per come ieri sono state spiegate, per come ha parlato di Cassano, di Gilardino, di De Rossi e soprattutto di Balotelli. Dario da Bergamo ci scrive al 349-238-6666: la sua scommessa Stramaccioni l'ha già vinta, perché è durato più di Gasperini e Ranieri messi insieme. Enrico, possiamo dire che Dario ha ragione o anche questa è una lettura un po' ingenerosa? In fondo Moratti ha avuto coraggio a rischiare su un giovanissimo come Stramaccioni. Ricordiamo che Stramaccioni ha alle spalle, con l'ultima, col derby, 16 panchine di Serie A. Credo che siamo di fronte probabilmente a un nuovo talento, quindi certi paragoni, sia in eccesso con Mourinho, sia per difetto con giocatori che hanno bucato lì all'Inter in tempi brevi, siano impropri. Consideriamo Stramaccioni un giovane talento che si affaccia con successo alla guida di una grande squadra piena di campioni, difficilissima per un giovane, ma lui se l'è levata benissimo finora. Cosa ne pensa invece delle scelte di Prandelli in questo nuovo ciclo che si è aperto dopo la finale dell'Europeo, il ciclo che ci deve portare al Mondiale in Brasile? Cosa ne pensa? Penso che ci sia un mare di incoerenza dentro lì. per usare un termine della vostra trasmissione, perché mi fa un po' ridere a me quando si mescolano scelte tecniche con situazioni che riguardano l'etica dei comportamenti. Sono ridicole anche perché poi dopo non sono seguite da una coerenza di decisioni, quindi qualche volta si trova che Cassano non viene convocato perché ora non si capisce, ma inizialmente doveva, come dire, dare degli esempi di maturità. Così Balotelli, quando sì, quando no, quando l'operazione, quando se era offeso prima dovrebbe essere offeso anche ora, se era punibile prima doveva continuare la punizione a lungo se c'era stato un tradimento con la nazionale. Poi le riscoperte di Gilardino, così tolto dal cilindro inaspettatamente. Insomma, sono un po' situazioni che gli allenatori farebbero bene a lasciar stare l'etica, a ritenere le loro scelte legittime, frutto soltanto di decisioni tecniche. Se poi dopo invece viene fuori il progetto morale, e qui torniamo indietro non col secondo, ma col primo concilio. Quindi se Balotelli serve, è giusto che venga convocato, anche se litiga con Mancini, anche se ha una vita personale che almeno viene descritta come disordinata. Ma guardi, sull'ordine della vita dei calciatori si potrebbe scrivere un libro infinito. E i giocatori devono essere giudicati per quello che fanno in campo e ovviamente anche il comportamento che hanno in campo. Ora, onor del vero, per me Balotelli, quando ha giocato in nazionale, e così anche Cassano, l'ho sempre visti con un comportamento esemplare, al di fuori del rendimento che può essere stato più o meno fortunato in alcune partite. Se poi dopo invece, quando si vuole cambiare e si tirano fuori le situazioni disciplinari, a me fanno un po' ridere. Veda il caso di Criscito, no? Che è stato mandato a casa, c'era un altro giocatore che aveva le solite, come dire, che aveva gli stessi problemi, eh? Che aveva gli stessi problemi, al di là poi del tecnicismo tra avviso di garanzia e avviso di garanzia. Criscito è stato amato a casa, poi dopo alla fine ora risalta fuori che Criscito è lì e quindi tutte le visite ai club genoani non contano più. Insomma, voglio dire, per chiudere questo argomento, gli allenatori dovrebbero limitarsi a giudicare i calciatori e a scegliere i calciatori sulle basi squisitamente tecniche, lasciando stare i grandi progetti morali, perché dopo sennò si insaccano e ci rimangono loro dentro il progetto morale che hanno imbastito, cioè dimostrando una amoralità figlia dell'incoerenza. Ma Balotelli sì o no allora? Cioè Corrado Rivo l'avrebbe convocato? Sempre! Balotelli, casomai l'unica punizione che gli si può dare, se dà i numeri, lo si fa sedere in panchina. E Cassano? Ma io dico, prima avete citato anche Totti, no? Io non capisco. Ora, su Totti, effettivamente, nel progetto Brasile mi sembra improprio, anche se l'infinita classe di questo giocatore, non so se poi fra 2 anni non sarà in grado ancora di fare cose eccezionali, ma in questo momento, se fosse... Fosse bisogno di un trequartista di fantasia, io il vero dubbio l'avrei fra Cassano e Totti, perché mi sembrano i giocatori di maggior talento che ci sia in Italia su quel ruolo. Io penso che Totti ci avrebbe fatto comodo anche nella spedizione europea in Polonia e Ucraina. Grazie a Corrado Enrico. Cioè qui si tirano fuori discorsi che non c'entrano niente, l'età, ma guardalo in campo cosa fa, no? Io domenica osservavo la Roma, e nella partita con l'Atalanta, che ha sofferto le pene dell'inferno, no? Specialmente il primo tempo, però la partita l'ha girata ancora una volta la formidabile classe di questo giocatore, che ha occhi in ogni posto della testa, non solo davanti e dietro ma anche laterali, perché riesce a far passaggi che bisogna ricostruire successivamente come è riuscito a da capire dove sono passati, da lì, perché sfuggiva alla prima impressione. Grazie Enrico, parlavamo anche prima con Max Biaggi del peso della carta d'identità in Italia quando si dà il giudizio sugli sportivi. Grazie a Corrado Enrico, Max Biaggi 41 anni, sesto titolo mondiale domenica. Roberto da Modena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. anch'io non sono un tifoso, sebbene blandamente uno dei 26 o 27 simpatizzanti della Roma qui a Modena, no? Per cui parlo soltanto da adulto. Quello che sta dicendo questo signore sul fatto che bisogna lasciare da parte i valori umani, l'etica, eccetera, quella, questo è quello che ha portato tutta l'Italia in questi 20 anni ad un degrado morale pazzesco, ma almeno nello sport, dove ci sono i bambini che devono crescere, che guardano, dove ci sono i ragazzi che hanno bisogno di questi valori che purtroppo la scuola e molto spesso i genitori non sono più in grado di dare, ma almeno nello sport, che invece, ma viva Dio che ci sia un allenatore che parli di queste cose, ma sto signor Orrico, però, Roberto, mi scusi, a patto che ci sia la coerenza, io posso anche condividere il suo ragionamento, e allora non posso ascoltare Prandelli dire ieri che Balotelli non andava convocato perché ha mancato di rispetto alla nazionale, e però col suo talento può servire, e quindi ecco la nazionale. Noi contestavamo, o meglio, discutevamo sulla mancanza di coerenza di Prandelli in queste chiamate. Grazie comunque. Nicola da Brescia, buon pomeriggio. Chi è? Nicola? Sì, pronto. Prego. Ah, sì. Buongiorno. Chiedo scusa. Io volevo fare una domanda in tema di nazionale, però prego. Mi sono accorto che è il 9 ottobre, quindi posso approfittare della vostra radio per fare gli auguri a Gianni Mura, il grande Gianni Mura. Assolutamente, ci associamo. Faccia anche la domanda sulla nazionale. No, è troppo tardi, non voglio togliere spazio agli altri. Mi basta gli auguri, sono contento così. Tanti auguri Gianni, grazie. Vi ascolto. Grazie a lei, allora. Beh, ci associamo agli auguri per Gianni Mura. E siamo al momento dei numeri della Champions. I numeri della Champions. Lo sapete quando è arrivata la prima espulsione in una finale di Champions League? È arrivata nella finale del 2006, la partita era quella tra Arsenal e Barcellona, la vittoria del Barcellona per 2-1. Il giocatore espulso è stato il portiere dell'Arsenal, che abbiamo visto anche nel campionato italiano, Jens Lehmann. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. E abbiamo finito anche per questo pomeriggio. Io ringrazio Franco Piantanide in redazione, Filippo Aureggi in regia. Tutti convocati torna domani a partire dalle 14:00.